Uno legge sul giornale, su Repubblica dell'8 gennaio, che il sindaco Albertini ha pranzato la vigilia di Natale a casa di Berlusconi ad Arcore. E si dice, beh, tutti i gusti sono gusti. La tradizione imporrebbe di passare il Natale con i tuoi, ma dopo tutto viviamo in un paese libero, ciascuno può farlo con chi vuole, come se fosse Pasqua. E poi Albertini è fatto così, lui è uno che va a prendere il caffè dalle vecchiette delle case popolari che lo invitano a rendersi conto di persona del degrado del quartiere. Un caffè per il bene della città si è dichiarato disposto a prenderlo persino con Dario Fo, che per lui deve essere il massimo dell'abnegazione. Perché non dovrebbe compiere un'ulteriore opera buona andando a pranzo per Natale da un poveraccio manifestamente abbandonato da Dio e dagli uomini, che per di più è consigliere comunale e notoriamente non è troppo assiduo alle sedute, e forse dalla voce severa del sindaco potrebbe utilmente essere esortato a una maggiore assiduità verso i suoi doveri civici. Però no, questa interpretazione non tiene. Uno legge la lista degli invitati e capisce che Albertini da Berlusconi non ci è andato né a compiere un'opera buona né per passare qualche ora con un amico, che sarebbe altrettanto lecito. Ad Arcole il sindaco si è presentato insieme al presidente del consiglio comunale, il noto Massimo De Carolis, il ex maggiorato silenzioso, quello che c'è praticamente dappertutto, ogni tanto capita persino di trovarlo a Radio Popolare, con il segretario cittadino di Forza Italia Fabio Minoli, che non so chi sia, e con il city manager Stefano Parisi, che se un manager è un manager deve essere un funzionario al servizio del comune in generale, mentre qua lo si considera una specie di segretario personale, ma insomma. E per di più accanto all'albero o al presepe, non saprei dire quale dei due Berlusconi allestisce nella sua dimora, ha trovato due noti, chiamiamoli così, cortigiani di Arcore, Federico Confalonieri e Paolo Liguori. Beh, insomma, basta la loro presenza per capire che la visita non è né un'opera di bene, abbiamo visto, né una rimpatriata tra amici, è una tipica manifestazione di ossequio al capo, no? In quel classico stile feudale che uno che di solito si fa chiamare cavaliere non può che apprezzare. E fin qui, niente di speciale. Sappiamo tutti che politicamente parlando Albertini non è proprio tanto indipendente, anzi che da Berlusconi dipende che più di così non si potrebbe. I milanesi d'altronde lo sapevano già prima di eleggerlo. Magari vanno eletto proprio per questo, lo ci augurati. L'indipendenza come il coraggio, diceva Don Abbondio, non è una cosa che uno non se la può dare, e da un certo punto di vista che quel povero uomo rinuncia alla vigilia di Natale con i suoi per andare a rendere ossequio al suo capo e a fargli rapporto può sembrare addirittura lodevole. Questo sì che è senso del dovere. Infatti, prosegue l'articolo, dopo il panettone, congedati Liguori e Confalonieri, si è parlato di bottega. Il cavaliere ha insistito sulla necessità di volare alto. Albertini ha cercato di rassicurarlo, verbo significativo, no? Ricordandogli la prossima convocazione degli stati generali della città, che non so cosa siano, ma presumo che non siano di quegli stati generali che si concludono col giuramento della palla corda. E poi ha chiesto con insistenza che si provveda, alla sostituzione di due assessori che pare funzionino malissimo. Gli assessori Achille e Zampaglione, che ne hanno fatte di cotte e di crude, hanno esposto la giunta al ridicolo proponendo di parcheggiare le auto sul mare a piede, hanno annunciato e non hanno saputo avviare un nuovo piano del traffico, si sono fatti beccare mentre mandavano in discarica dei rifiuti umidi che avevano promesso di riciclare e via dicendo. Albertini non li vuole proprio più e francamente non si saprebbe dargli torto. Però porca miseria, lui è il sindaco, è eletto direttamente dal popolo, è responsabile in prima persona della politica municipale, gli assessori sono assessori perché lui li delega a svolgere in suo nome le loro funzioni, se non gli piacciono non ha che mandarli via. Sì, d'accordo, sono assessore di Forza Italia, ma lui è il sindaco, si è vantato fino alla nausea di averli scelti per criteri di pura competenza, li ha indagati con metodi squisitamente manageriali, compresi le analisi grafologiche, chieda a Minoli di mandargliene altri due e è morta lì. Andare a parlarne prima con Berlusconi significa chiedergli permesso, no? E va bene non essere indipendenti, ma essere così dannatamente proni per un primo cittadino sembra un po' troppo. Nessuno ambisce in questa città post-craxiana e post-leghista come sindaco un uomo di ferro o un uomo di marmo, ma proprio un uomo di paglia sembrerebbe un po' troppo. E poi il vero problema naturalmente è quello di come ha fatto Repubblica a essere così ben informata su quanto si è detto dopo il panettone a un pranzo privato. Negli ultimi 3 giorni, da quando è uscito quell'articolo, c'è stato un tourbillon di accuse reciproche e di indiscrezioni con la stampa, ma è difficile che sia stato Berlusconi e i suoi fidissimi. Per loro la questione è più che altro fonte di imbarazzo. È molto più probabile che sia stato Albertini, che nella previsione che quegli assessori non gli lasceranno sostituire neanche morti, vuole mettere le mani avanti e spiegare ai cittadini che lui vorrebbe tanto farne a meno, che a lui interessa solo il bene della città, ma poverino deve fare i conti con chi può più di lui, i politici hanno le loro ragioni, compatitelo e continuate a volergli bene. Certo, dal punto di vista dei rapporti col capo, sarebbe un atteggiamento un pochino infido, no? Ma d'altronde essere al tempo stesso servire di infidi è la caratteristica classica dei protégé degli uomini di paglia di tutti i tempi. Poi naturalmente aspettate un paio di settimane e qualcuno ci verrà a dire che è meglio un sindaco servire di infido verso Berlusconi che uno servire fidatissimo, perché in quella infedeltà ci si può inserire qualche bel giochino politico, ma non diamogli retta perché ci hanno già provato con Formentini e abbiamo visto come è andata a finire. Thank you.